GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Rintracciati sani e salvi meno di un'ora fa i due escursionisti americani di cui si erano perse le tracce ieri sera. Le ricerche si erano svolte fra i sentieri e i boschi nella zona fra Forni di Sopra, Cimolais e Cloud, con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi per rintracciarli. Diverse centinaia le persone che sul molo Audace, sulle rive di Trieste, hanno partecipato alla manifestazione regionale per esprimere solidarietà alla Global Summund Flottilla, la missione umanitaria che tenterà di rompere l'assedio di Gaza. A Rivolto è in corso la prima delle due giornate del grande air show organizzato dall'Aeronautica Militare per festeggiare la pattuglia acrobatica, il secondo stormo di base, anch'esso sulla base friulana. Da lunedì la superstrada slovena H4 sarà chiusa in direzione dello snodo di Razdörto. Per questo motivo il traffico pesante sarà deviato sul valico di Fernetti tramite il raccordo autostradale 13. È previsto dunque un aumento del traffico all'Isert fino al 30% nei primi giorni della settimana e oltre il 50% fra giovedì e venerdì. Fuori tutto in regione, questo è il fine settimana dello sbaracco, occasione per i negozianti di rinnovare l'offerta, liberare i magazzini, offrire sconti alla clientela e per recuperare una stagione dei saldi un po' sottotono. Un cinema coraggioso e Cinema Zero, realtà che ormai è tutt'uno con Pordenone e il territorio. Alla Mostra del Cinema di Venezia ha conquistato il prestigioso premio Lizzani, appunto per il coraggio e l'intraprendenza e caratterizzandosi come hub culturale unico in Italia. Esperimenti scientifici, cacciatori di detriti spaziali e il prototipo di monoposto a trazione elettrica dell'Università di Udine. Questo e altro a Trieste in Piazza del Ponte Rosso negli stand del Young Festival. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni Andrei Marušić e Antonio Cagliazza. Dunque, lieto fine nelle ricerche sui monti nella zona fra Forni di Sopra, Cimolais e Clout. Sani e salvi i due escursionisti americani. I volontari del soccorso alpino hanno trovato vivi, dopo oltre 13 ore di ricerche, i due escursionisti statunitensi, un uomo e una donna, che erano attesi ieri sera al rifugio Pordenone in comune di Cimolais, sul versante occidentale delle Dolomiti friulane. Sono stati individuati in casera a Bregolina Grande. Non è ancora chiaro perché fossero lì, ma è possibile che siano stati sorpresi dal forte temporale di ieri pomeriggio. Sono stati riportati in elicottero al rifugio Giaf, dove avevano lasciato l'auto a noleggio l'altro ieri, per completare il noto anello delle Dolomiti friulane. L'allarme è scattato quando i gestori del rifugio Pordenone non li hanno visti arrivare. Ieri mattina erano partiti dal Paccherini alle 8:30. Imponente la macchina delle ricerche, proseguite per tutta la notte anche con mezzi aerei. Prima l'elicottero sanitario della SORES, poi quello dell'Aeronautica Militare, che hanno permesso l'esplorazione dei bivacchi della zona. Le operazioni sono continuate anche oggi con due elicotteri della Protezione Civile Regionale e della Guardia di Finanza, 7 le squadre a terra del soccorso alpino, a partire da Forni di Sopra e dalla Valcellina. Il campo base dell'operazione era stato allestito nell'avio superficie di Clout. Nella zona dell'escursione, in particolare sul versante pordenonese, il segnale telefonico è scarso o nullo. All'operazione hanno collaborato i carabinieri per quanto di loro competenza. Non si hanno molte informazioni sulla coppia, se non che è di giovane età e che con ogni probabilità si tratta di turisti. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il sostegno alla Global Summund Flottilla, la missione marittima civile che tenterà di rompere l'assedio di Gaza per aprire un canale umanitario, oggi ha per scenario Trieste e il molo Audace proteso sul mare, dove si è svolta una manifestazione regionale. Dopo Gradisca e Monfalcone, anche Trieste ha manifestato il suo supporto per la Global Summund Flottilla, che si sta organizzando nel Mediterraneo per salpare tra qualche giorno da Tunisi e una nave pronta a salpare anche dalla Sicilia alla volta di Gaza per rompere l'assedio e portare cibo, acqua e medicinali ai palestinesi. Si tratta della più grande missione marittima civile mai tentata verso Gaza e costituita da persone comuni, attivisti, giornalisti, ma anche parlamentari e persone dal mondo della cultura e dello spettacolo. E medici, perché l'imbarcazione più grande è quella dell'ONG italiana Emergency, attrezzata come un ospedale con tanto di medici e infermieri pronti per fornire un supporto sanitario, che speriamo non serva nel momento in cui ci avvicineremo alle acque territoriali, ha detto Raul Pantaleo di Emergency, sottolineando che non escludono un attacco da parte dell'esercito israeliano. In mattinata saranno passate quasi 500 persone al Molo Audace a Trieste, tanti cittadini, tante anche le rappresentanze di associazioni, movimenti, partiti e sindacati, ammesse solo le bandiere della Palestina e della pace. Critiche ai Novax che hanno esposto uno striscione con una scritta antisionista, atto dal quale hanno voluto dissociarsi il Comitato 27 maggio e 29 settembre per Gaza, il PD, la CGIL e tanti altri. Diversi sono stati gli interventi in cui si parlava della carestia come arma da guerra, della fame, della tortura, del genocidio e della mancanza di pressione diplomatica, in tanti hanno ribadito che il buon vento porti la Global Sumud Flotilla a Gaza. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora andiamo alla base aerea di Rivolto, sede del secondo stormo, reparto che festeggia i suoi 100 anni e soprattutto sede delle Frecce Tricolori, che invece festeggiano la loro 65esima stagione di acrobazie aeree. Per questa festa l'aeronautica ha preparato 2 giorni di air show che oggi e domani richiama in Friuli decine di migliaia di appassionati. Nel tardo pomeriggio la pattuglia acrobatica, ma i voli sono già in corso dalle 10 di stamattina. Oltre 100.000 appassionati in 3 giorni per un evento con cadenza quinquennale che unisce davvero tutti. C'è entusiasmo qui a Rivolto per la seconda giornata del show organizzato dall'Aeronautica Militare, la prima riservata al pubblico. Si celebrano i 65 anni delle Frecce, ma anche il centenario della base che cadeva ieri. Una festa che celebra ancora di più il legame tra la pattuglia nazionale acrobatica e il Friuli Venezia Giulia. Ma gli spettatori vengono praticamente da tutta Italia. Abbiamo incontrato tantissima gente dal Triveneto, ma addirittura da Lecce, tutti per salutare per l'ultima volta in un aero show dell'aeronautica gli Aermacchi MB-339, ormai attivi dal 1982, che saranno sostituiti ufficialmente dal 2028, forse prima, dagli altrettanti italiani M-346 costruiti da Leonardo. Vastissimo il programma, uguale sia oggi che domani, che è già partito con il volo tra gli altri dell'ammiratissimo FA-18 Hornet spagnolo. Tantissime le pattuglie acrobatiche ospiti dalla Lituania, dalla Finlandia, Polonia, Svizzera, Turchia e Francia, con le celebri Patrouille de France, la seconda pattuglia più amata al mondo, dopo ovviamente alle Frecce, che si esibiranno per ultime poco prima delle 18. Tra i momenti più attesi anche il decollo verticale di un F-35. Ricordiamo per chi è a casa che domani lo spettacolo sarà trasmesso in diretta da Rai 1 alle 17:15. Il 65esimo anniversario sarà anche l'occasione per sostenere l'iniziativa della raccolta fondi Un Dono dal Cielo a favore dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. In particolare dal 5 al 9 settembre sarà attivo il numero solidale 45595, attraverso il quale sarà possibile donare 2 euro con sms da cellulare e 5 euro con una chiamata da rete fissa. Rivolto, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. È giornata di memoria e di storia a Pordenone, dove un carro armato appartenuto al 182esimo reggimento fanteria di Cordenons e restaurato dalla fiera di Pordenone è stato consegnato ufficialmente alla 132esima brigata corazzata Ariete. Alla cerimonia ha portato un saluto Renato Pugliatti, presidente della fiera, che ha ringraziato quanti hanno contribuito al recupero e al restauro del mezzo militare. In rappresentanza della città il sindaco di Pordenone Alessandro Basso. Da lunedì la superstrada slovena H4 sarà chiusa in senso opposto, ovvero verso il nodo di Razdrto. Per questo motivo il traffico pesante sarà deviato sul valico di Fernetti tramite il raccordo autostradale 13. Il traffico dei veicoli pesanti verso l'Italia sarà invece indirizzato su una corsia della carreggiata nord della superstrada H4 e quindi non più, come avveniva fino ad ora, al confine di Fernetti. Si prevede perciò un aumento del traffico all'Isert fino al 30% nei primi giorni della settimana e oltre il 50% fra giovedì e venerdì. Autostrade Alto Adriatico si prepara a gestire la nuova chiusura della superstrada slovena H4, pianificando una serie di attività per mitigare possibili nuovi disagi in collaborazione con la stessa concessionaria slovena, la DARS. Per ridurre i disagi verranno attivati pannelli a messaggio variabile, una terza corsia di telepedaggio e, in caso di code superiori ai 6 km, la deviazione dei mezzi leggeri sulla A34. Vietati gli smartphone negli istituti superiori, a stabilirlo una circolare del ministro Valditara diramata in giugno. Le scuole si stanno organizzando aggiornando i regolamenti, ma sono tantissime quelle in cui l'uso del cellulare è stato già vietato. A scuola senza cellulare anche alle superiori. A dirlo quest'anno è anche la circolare del ministro Valditara, che chiede agli istituti di aggiornare i propri regolamenti e impone provvedimenti disciplinari. Inoltre il cellulare potrà essere utilizzato per finalità didattiche solo in alcuni istituti di impostazione tecnica. In realtà sono tantissime le scuole dove non si può tenere il telefonino sul banco. All'Istituto Volta di Trieste il problema è più logistico. La dirigente scolastica Igea Cuccia. Abbiamo dovuto allestire in ogni aula dei porta cellulari in cui i ragazzi lo depositeranno all'inizio dell'ora fino alla fine dell'ora, perché a scuola abbiamo la rotazione delle aule. Fino allo scorso anno scolastico però qui gli studenti potevano tenere con sé il cellulare durante la ricreazione. E la scuola sta organizzando delle attività per favorire la socializzazione e poi stiamo elaborando un regolamento che indichi le sanzioni disciplinari da applicare. All'Istituto Nautico Galvani di Trieste invece niente cellulare già da 3 anni, ricreazione compresa. Il dirigente scolastico Francesco Fazzari. Abbiamo sempre fatto capire ai ragazzi l'importanza di mettere via il cellulare per le 6 ore in cui stanno qua. Il primo ovviamente è il preside, che non lo usa mai. E devo dire che i ragazzi hanno sempre accolto questa con grande disinvoltura. Ci sono stati rari casi in cui lo abbiamo preso e i genitori sono sempre detti più che favorevoli a questi. Con l'intelligenza si combatte sempre tutto. Tra le novità di quest'anno anche il ritorno della vecchia denominazione esame di maturità, che prevede anche la bocciatura automatica per gli studenti che si rifiutano di sostenere il colloquio orale. Una notizia appena uscita, quindi ci organizzeremo in tal senso e quindi prepareremo i ragazzi per questo nuovo tipo di esame. Trieste, Vaciutti, GR, Friuli Venezia Giulia. Un cittadino rumeno di 29 anni è stato arrestato dalla polizia. Intercettato dalla polizia di frontiera di Tarvisio in quanto inseguito da provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte d'Appello di Milano per un mandato di arresto europeo emesso in Romania per violenza sessuale, l'uomo è stato anche denunciato da noi per ricettazione. Nella sua abitazione di Tarvisio, infatti, sono stati trovati 800 capi di abbigliamento di noti marchi per un valore totale di circa 120.000 euro. E oggi la provincia di Udine si trasforma in un grande centro commerciale a cielo aperto con lo Sbaracco 2025. Sono 86 le aziende che hanno aderito all'iniziativa di Confcommercio, dai negozi di Udine, cuore dell'evento, alle realtà di montagna e di mare, da Tarvisio a Lignano, passando per San Daniele, Codroipo, Villa Santina e La Tisana. In vetrina e all'esterno dei negozi gli ultimi capi estivi, non solo, proposti a prezzi ribassati, un'occasione per i commercianti di svuotare i magazzini e per i clienti di fare affari, riscoprendo allo stesso tempo la vitalità dei centri cittadini. Abbiamo sentito Alessandro Toleon, presidente di Confcommercio Udine, che si è soffermato anche sulla stagione dei saldi estivi. Ecco, la stagione dei saldi anche quest'anno è un po' sottotono. Ormai non hanno quella appeal che avevano 10 o 20 anni fa, quando si vedevano le code fuori dai negozi, ci sono promozioni tutto l'anno. Invece lo Sbaracco tiene e ogni anno ci sono maggiori adesioni, proprio perché serve a ridurre i capi in magazzino, quindi si fanno delle offerte particolarmente vantaggiose, il commerciante ne approfitta per alleggerire il magazzino e cominciare ad esporre le nuove collezioni e i nostri clienti approfittano di prezzi sorprendentemente bassi. Questo è un evento molto concentrato, ma qualcuno lo allunga fino alla domenica, e in quell'occasione lì troveremo anche i capi esposti fuori dai negozi. Sarà una specie di grande mercatino molto piacevole, anche abbellito dai palloncini arancioni che vedremo nelle città, e io mi auguro che ci sia un grande flusso. L'iniziativa coinvolge anche il Friuli Occidentale. A Pordenone saranno oltre 30 le attività aderenti, con stand e manichini lungo Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi e le vie del centro. Ad identificare lo Sbaracco a Gorizia ci saranno i palloncini gialli e neri, un omaggio alle api. Ed ora vediamo la situazione meteorologica. Il cielo è sereno sulla regione. Le temperature alle 11, a Trieste 24,5 gradi, il mare è mosso e ha una temperatura di 25 gradi, a Gorizia 25,5, a Udine 24, a Pordenone 23, a Tolmezzo 17,5 gradi, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 17 gradi, a Tarvisio 15,5, a Sappada 13, Monte Zoncolan 11,5 gradi, Monte Lussari 9,5, a Grado 26, a Lignano 25, la temperatura del mare nelle due località è di 25 gradi. Le previsioni per oggi pomeriggio: bel tempo con cielo in prevalenza sereno su pianura e costa e poco nuvoloso sulla zona montana. Il vento si attenuerà tranne a Trieste, dove resterà del borino. Temperature massime estive vicine ai 30 gradi. E per domani tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso, prevelature 20 di brezza. Soddisfazione a Pordenone per il premio Carlo Lizzani, che alla 82esima mostra del cinema di Venezia è stato assegnato a Cinema Zero per il cinema più coraggioso d'Italia. La giuria, composta fra gli altri da Flaminia Lizzani e Francesco Lizzani, ha premiato il cinema pordenonese per l'intraprendenza, l'originalità e l'impegno costante sul territorio, e fra le novità messe in campo lo Spazio Zero e la rinnovata Mediateca. Abbiamo raggiunto telefonicamente al Lido Marco Fortunato, presidente di Cinema Zero. Con quanta emozione è stato accolto questo riconoscimento? Con moltissima emozione, perché rappresenta un riconoscimento per un lavoro che stiamo facendo da molti anni, un lavoro collettivo, un lavoro che si basa su dei valori, e quindi ci fa veramente piacere che questo nostro impegno sia stato riconosciuto e sia stato definito con un aggettivo che ci sta molto a cuore: coraggioso, perché crediamo che il coraggio, insieme a una serie di altri valori, insomma, contraddistinga il lavoro culturale che Cinema Zero cerca di fare con il territorio e con la comunità. La motivazione del premio fa riferimento all'intraprendenza, all'originalità e all'impegno costante sul territorio. Beh sì, sai, un impegno che è cominciato nel 1978 e che continua ancora oggi, e la sfida, come è facile immaginare, è quella di mantenere sempre attuale, sempre vivo questo impegno, quindi di affrontare quelle che sono le piccole e le grandi sfide, anche quotidiane, per cercare appunto di dare vita ad un progetto culturale che sia coerente e che sia appunto basato su dei valori precisi. Quella dell'intraprendenza è una caratteristica che credo da sempre contraddistingua la storia di Cinema Zero. Un percorso fatto di eventi, ma anche fatto di servizi alla collettività, alla città, all'area che vi sta intorno. Cosa sono Spazio Zero e la nuova Mediateca? Sono due dei quattro poli di questo progetto di creazione di un vero e proprio hub culturale, una sorta di unicum a livello italiano, appunto un hub che si articola in quattro poli cittadini. Lo Spazio Zero è questa nuova sala polifunzionale che abbiamo creato insieme all'amministrazione comunale di fronte al cinema, un luogo dove vivere appieno la socialità che il cinema porta con sé. E la nuova Mediateca è appunto la versione rinnovata della nostra Mediateca, che diventa uno spazio laboratoriale per l'esperienza, a cui si affiancano appunto la sala, il luogo per il diretto per la visione, e il nuovo archivio climatizzato, che diventa luogo della memoria, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio. Scienza, spazio e motori, protagonisti all'FVG Young Festival di Trieste in piazza Ponte Rosso. Spazio alla divulgazione scientifica fatta dai giovani per i giovani, a progetti aerospaziali e prototipi di macchine elettriche da competizione. C'è chi porta gli esperimenti scientifici nelle scuole, chi va a caccia di detriti spaziali e chi progetta prototipi di monoposto a trazione elettrica. Sono alcuni dei progetti che appassionati e curiosi hanno potuto scoprire in piazza Ponte Rosso a Trieste, negli stand dell'FVG Young Festival. Fra i ragazzi che hanno illustrato le iniziative anche Giulio Prodan, 18enne triestino che per la sua attività di divulgazione scientifica ai più giovani è stato anche nominato alfiere della Repubblica. Con il progetto Class Lab porta la biologia molecolare e la microbiologia nelle scuole elementari e medie. Obiettivo: dimostrare che la scienza non è solo qualcosa di noioso da studiare sui libri, ma anche qualcosa con cui sporcarsi le mani e divertirsi, spiega. Nell'ultimo anno ha raggiunto circa 850 bambini e ragazzi con microscopi, cultura dei microorganismi e vetrini. Astreo, team multidisciplinare dell'Università di Trieste, si occupa invece di ricerca e sviluppo in ambito aerospaziale e sta sviluppando un satellite per il rilevamento di detriti spaziali in orbita bassa e un sistema di intelligenza artificiale che possa combinare i dati di radar terrestri e satelliti per creare mappe predittive dell'evoluzione dei detriti spaziali. Ma lo stand che ha suscitato maggiore interesse è stato quello che ha presentato un prototipo a trazione elettrica realizzato da un team di studenti dell'Università di Udine per la Formula Student. Di recente ha conquistato l'undicesimo posto in una competizione in Croazia, miglior risultato finora, mentre la prossima settimana scenderà in pista a Varano de Melegari. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Diabolic Tex, Nathan Never, ma anche Paperino, animali fantastici e draghi colorati uniti in una nuova avventura artistica per dare supporto a chi si occupa di persone e bambini con disabilità. Si intitola Tratti di creatività, segni di solidarietà, l'esposizione collettiva di fumettisti e illustratori italiani e sloveni al Caffè San Marco a Trieste fino al 25 settembre per raccogliere fondi a favore dell'associazione Mitiaciuk, che tra le altre attività sta realizzando a Opicina una residenza Dopo di Noi e un asilo nido. Nel servizio che sentirete le voci di Stanislava Sosic-Ciuk, presidente dell'associazione Mitiaciuk, e del fumettista Romeo Toffanetti. Com'è nata questa idea? La nostra vicepresidente dell'associazione ha portato questa proposta nel consiglio direttivo, che ha incontrato il suo amico Toffanetti e ha detto: ma perché non facciamo una mostra di beneficenza a Trieste a Caffè San Marco? Caffè San Marco, tutti ci siamo stupiti perché un posto talmente speciale, talmente bello e talmente legato alla storia anche nostra, che mai più potevamo pensare che saremo anche qui presenti con una mostra di beneficenza. La sensazione entrando, vedendo tutti questi artisti a disposizione per un'ottima causa? Penso che possiamo essere strafelici, perché così anche gli altri che ci aiutano vedono che se tanti artisti apprezzano il nostro lavoro, allora vuol dire che qualcosa abbiamo fatto in questi quasi 50 anni della nostra vita. Un bel motivo, secondo me, questa asta di beneficenza per l'associazione Mitiaciuk. Secondo me è una cosa molto bella dal punto di vista della motivazione, ma anche delle opere esposte. C'è molta varietà, c'è fumetto, illustrazione, illustratori del territorio, fumettisti della Bonelli come Barison, Mario Alberti che ha lavorato anche per la Francia, il segno anche di Davide Toffolo, il leader dei Tre Allegri Amazzoni. Qui c'è una grande varietà, una delle cose belle di questa mostra è la grande varietà di segno e di tratti. Trieste, Elisabetta Tomsic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le 12.51, lo sport, il basket, ieri sera due eventi di prestagione in regione al Carnera di Udine, prima giornata del Memorial Paietta che ha visto l'Apo imporsi sugli sloveni del Domžale per 81-68 e passa così in finale dove le attende Trapani. Prima uscita casalinga per l'Apu Old Wild West che al Pala Carnera ha superato gli sloveni dell'Helios Domžale per 81-68 nella semifinale del Memorial Piera Paietta, torneo dedicato alla madre del presidente Alessandro Pedone. Nonostante le assenze del capitano Libegovic e di Hickey rientrato negli Stati Uniti, i bianconeri hanno mostrato compattezza e qualità trascinati dai nuovi arrivati, sebbene coach Vertemati ha definito la squadra ancora un cantiere aperto. Primo tempo equilibrato, chiuso 39-34 con qualche passaggio a vuoto dei padroni di casa e il Domžale a condurre i giochi per alcuni minuti anche con un parziale di 7-0. La svolta è arrivata nel terzo quarto con la difesa bianconera aggressiva e recuperi di Brewton e Spencer uniti al dominio sotto canestro di Mekevolu. In attacco si sono messi in luce Bendizius e Dawkins, entrambi autori di 23 punti, mentre Calzavara ha conquistato il pubblico con leadership e intensità. In campo ieri anche Cividale sconfitta da Mestre per 91-89 al Memorial Bortoluzzi a Lignano Sabbiadoro. I ducali giocheranno nel pomeriggio la finalina contro Forlì. E si è svolta stamattina la conferenza stampa di presentazione della 25esima Maratonina Internazionale Città di Udine. Illustrate le novità e le iniziative collaterali che accompagneranno la manifestazione dal 18 settembre fino alla corsa clou di domenica 21. Attesi migliaia di partecipanti, una delle novità principali è il tracciato a due giri. Ce lo spiega Paolo Bordon, presidente della società organizzatrice. Pensato di ricordare col percorso poi il 2007 dove a Udine si è corso il campionato del mondo di corsa su strada e a Udine si è fatto il record femminile nel 2007 dove la Kiplagat ha stabilito un record del mondo che è durato per moltissimi anni. Quindi il percorso cambia anche nell'ottica di celebrare quella che per noi è stata la pagina più importante della storia dal punto di vista agonistico del nostro evento. Ci sono anche altre importanti novità per quanto riguarda gli eventi collaterali? Cerchiamo di accompagnare queste due giornate con tutta una serie di celebrazioni eventi. Vorremmo ricordare persone che ci sono state vicine in questi 25 anni, partendo dagli atleti, in particolar modo Ruggero Pertile, che è l'unico italiano che è salito sul podio, il gradino più alto, il primo posto nel 2014. Sarà presente ai nostri eventi e poi altri campioni che negli anni in qualche modo ci sono stati vicini, hanno corso Udine tutti i più grandi atleti italiani, Stefano Baldini, Battocletti, il papà della nostra campionessa attuale olimpica. Uno dei appuntamenti importanti sarà anche la mostra della maratonina di Udine. Nella mostra della maratonina di Udine esibiremo sia le maglie che tradizionalmente hanno un logo non scelto da noi ma fatto dai grafici, dai ragazzi che studiano grafica e che ogni anno concorrono per scegliere il logo della maratonina dell'anno a venire, e anche le medaglie, perché le medaglie sono state tutte diverse anno per anno e quindi per noi è anche motivo di rappresentarle. E domani, dopo il GR del mattino, su questa frequenza torna Vita nei campi, la trasmissione dedicata all'agricoltura con la sua prima puntata dopo la pausa estiva. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani fa il punto sul prosciutto di San Daniele Dop e i dazi di Trump al 15%. Si faranno sentire, dice il consorzio, ma il mercato USA è solido. A seguire gli odori e i rumori dei prati della campagna friulana. Gli ultimi trapianti in orto, i suggerimenti per scegliere le piantine dei cavoli. La birra, il viaggio in una storia lunga 6.000 anni che inizia in Mesopotamia. E ancora ora è cronaca d'estate, le indicazioni per conserve domestiche a prova di botulino, la ricerca di nuovi substrati tra cambiamenti climatici e crisi geopolitiche, in conclusione andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni meteo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei campi, Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12.56 minuti e 30 secondi. Termina qui questa edizione che ha avuto l'assistenza tecnica di Samuel Montalto e di Paolo Cassano e la collaborazione in redazione di Laura Sarasini. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 14.30, l'orario del sabato, su questa frequenza. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Andrei Maruscic e da Antonio Caiano l'augurio di un buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.